piano. Di Enrico Ruggeri. Immaginiamo il mondo della musica come un enorme puzzle composto da centinaia, migliaia di pezzi. Immaginiamo che ognuno di questi pezzi rappresenti un musicista o una band, e noi di questi tasselli ne abbiamo raccontati parecchi. Bene, ognuno di questi pezzi, come in tutti i puzzle, è unito a tanti altri tasselli che sono uniti ad altri tasselli ancora, con dei contatti che possono essere incontri, canzoni magari anche rubate, oppure collaborazioni tra artisti, band che nascono e si sciolgono. E poi però in questo puzzle ci sono dei pezzi che vanno evidenziati, sono i pezzi speciali, quelli collegati a un numero maggiore di tasselli. Stiamo parlando di quei grandi musicisti che sono stati fonte di ispirazione per decine e decine di altri artisti in una meravigliosa catena in cima alla quale però c'è sempre qualcuno. Bene, noi oggi racconteremo la storia di uno di questi, un musicista che con il suo suonare ha dato un contributo fondamentale per la nascita del rock and roll. Signori, Mr. Chuck Berry. Va bene, questo è un pezzo un po' vecchio. Beh, ecco, è un pezzo un po' vecchio dalle mie parti. Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in C, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok? Non potevamo non iniziare con una delle citazioni cinematografiche più famose per quanto riguarda la musica, e la scena di Ritorno al Futuro, quella nella quale Marty McFly intrattiene dei ragazzi del 55 suonando Johnny B. Good, che poi uscirà nel 58. È una citazione giustificatissima, perché Chuck Berry è considerato, a ragione, uno di quegli artisti dai quali tutto ha origine. Parliamo di rock and roll, però per capire come lui abbia raggiunto il successo dobbiamo partire da lontano, dal 1926, quando in un quartiere di St. Louis, Missouri, nasce Charles Edwards Anderson Berry, figlio di un pastore battista, quarto di sei figli, in una famiglia che però non se la passa malissimo, anche se loro vivono comunque in un quartiere ghetto della città, stiamo parlando di gente di colore negli Stati Uniti di quegli anni. Non ci sono grandi problemi lì, a condizione di accettare tutte le limitazioni che erano legate alla differenza di razza: locali per soli neri, scuole per soli neri, teatri per soli neri, come il Teatro Fox di St. Louis. Quando avevo 11 anni sono venuto proprio qui per vedere Racconto di due città. Mio padre voleva che lo vedessi per il suo alto contenuto artistico, ma la signora alla cassa mi mandò via perché la mia gente non poteva entrare nel teatro. Ci sono voluti 2 anni prima che quello spettacolo arrivasse nel teatro del mio quartiere. Chuck è di buona famiglia, frequenta la scuola, studia musica, però sta covando una rabbia interna che nasce da questo tipo di atteggiamento, da questa discriminazione razziale, magari anche subdola, ma è molto profonda. E questa rabbia repressa deve trovare una valvola di sfogo. Così Chuck, a 18 anni, finisce in riformatorio per avere rubato un'auto minacciando il proprietario con la pistola. 3 anni di riformatorio, e lì però lui riesce a coltivare la sua grande passione, che è la musica, il blues, imparato nei locali del ghetto. Forse è proprio in quei 3 anni che lui riesce a trovare la strada giusta. Nel 48, a soli 22 anni, Chuck Berry si sposa, deve mettersi a lavorare per mantenere la moglie e la figlia, che è arrivata 2 anni dopo. Fa il garzone da barbiere, l'operaio, il custode, insomma fa la vita dura. E la musica non basta per coprire le spese, lui sviluppa anche un rapporto difficile col denaro, un rapporto che si porterà avanti per tutta la carriera. La sua filosofia di vita è meglio farsi pagare subito e in contanti. Qua in Italia non si può più, ci vogliono i bonifici. Un comportamento tipico di chi sta vivendo una vita in salita in attesa del grande cambiamento, del grande colpo d'ala. E intanto suona in un gruppo, quello del pianista Johnny Johnson. Però non si suona solo il blues, si suona anche la musica dei bianchi, il country. All'inizio questa musica Chuck sembra inutile, noiosa, poi comincia però a influenzare il suo modo di suonare la chitarra. Arrivano sonorità che diventeranno il suo marchio di fabbrica. Però per raggiungere il successo bisogna tentare la fortuna, e uno dei musicisti incontrati nei locali a St. Louis è Muddy Waters. È uno che il successo lo ha già raggiunto, è uno che ha capito che questo ragazzo ha del talento. Insomma, gli consiglia di incidere dei pezzi, di farli sentire a Leonard Chess della Chess Records di Chicago. Lui si presenta con dei pezzi blues, ma Leonard Chess preferisce un'incisione di un pezzo country, una che Chuck Berry ha inciso quasi per scherzo. Si intitola Ida May, racconta di storie d'amore, di corsi, di automobili, argomenti che piacciono ai giovani. Chess decide di cambiare il titolo in Maybelline. Il disco esce nel luglio del 55 ed è subito un successo. In quegli anni ancora non avevo capito se avrei fatto il musicista per tutta la vita. Ero un carpentiere e guadagnavo molto di più con questo lavoro. Poi però, quando le cose cambiarono, i soldi arrivarono e allora scelsi la via della musica. Eh sì, i soldi sono la vera ossessione di Chuck Berry. Se ascoltate una qualsiasi sua intervista, prima o poi si finisce per parlare di soldi. E ora che Maybelline comincia a far ballare i giovani americani, stanno arrivando per lui dei soldi, e anche tanti. Il falco e il gabbiano. Negli anni 50 la televisione non è ancora seguita, è ancora un prodotto di nicchia. Può capitare che un cantante si veda di persona solo dopo che la sua canzone è diventata famosa. Chuck Berry è un ragazzo comunque istruito, parla un americano pulito senza accento. Insomma, la maggior parte degli ascoltatori radiofonici pensano che lui sia un bianco, e questo è un bene, perché lo pensano anche i disc jockey delle principali radio americane. E quindi la programmazione di Maybelline, che sarebbe stata censurata solo a Genova, perché Maybelline a Genova significa altro, insomma, la programmazione della canzone è ottima, diventa un successo. Quando abbiamo registrato Maybelline, io ero l'unico autore, perché l'avevo scritta nella mia cantina, e di questo ero sicuro. Quando poi uscì lo spartito, i nomi degli autori erano tre. Uno era un DJ, e poi c'era quello che aveva trascritto il mio spartito. Allora dissi a Leonard: perché alla fine devo accontentarmi di un terzo delle royalties? Era una cosa che non mi andava giù. E beh, tutte le carriere partono con qualche fregatura da parte di qualcuno, però è una cosa che Chuck Berry non riesce a digerire. E peraltro è anche comprensibile, perché il disco vende 1 milione di copie, va in testa a tutte le classifiche americane, anche se non raggiunge la prima posizione, ma è lì. E poi escono altri singoli: Roll Over Beethoven, School Days, Rock and Roll Music. Insomma, dal 57 al 59 Chuck Berry entra in classifica con una decina di pezzi. Tutti i ragazzi d'America ballano le sue canzoni. E il grande successo di Chuck Berry deriva probabilmente da un marchio di fabbrica, che è il modo in cui lui riesce a suonare la chitarra, con attacchi che magari sono simili tra loro, ma che lo rendono riconoscibile fin dalle prime note. E poi ci sono i testi che fanno la differenza con gli altri cantanti dell'epoca, perché ogni sua canzone è una storia ben definita, racconta quello che accade in quel momento tra i giovani, gli amori, la scuola, le auto. Chuck Berry riesce a dialogare, pur essendo quasi trentenne, riesce a intercettare le istanze dei teenagers americani. As long as the music is has something to do with your walk of life. Finché la musica avrà attinenza con la vita della gente, allora la gente ti ascolterà. Ecco perché ho scritto a proposito di scuola, perché tutti vanno a scuola, e siccome molti hanno una macchina, ho parlato di auto. E soprattutto, la gente si innamora e ricorda i suoi amori. Ed ecco perché ho scritto canzoni d'amore. E poi c'è quella sua incredibile capacità di stare sul palco, di infiammare il pubblico con le gambe che si muovono velocissime mentre suona, col corpo che si piega, si rialza, che va da una parte all'altra del palco. E chiunque sia stato sul palco, me compreso, almeno una volta ha riprodotto il duck walk, che è quella camminata un po' curvi con una gamba alzata e una no, suonando la chitarra e andando avanti, un po' quello che poi fece a modo suo Angus Young nel film Hail Hail Rock and Roll. Lo stesso Chuck Berry che ricorda come è nato questo passo. Vi ricordate quando mamma mi diceva sempre di fare quella cosa di passare sotto il tavolo saltellando? Mi ricordo che una delle prime volte che suonai Maybelline mi misi a farlo di nuovo sul palco e alla gente piacque così tanto che continuai a farlo in ogni concerto. Il 31 marzo del 1958 esce un nuovo disco, una canzone che racconta di un povero ragazzo di campagna che diventa una star grazie alla sua tenacia, alla sua voglia di far suonare la sua chitarra, l'incarnazione rock and roll del sogno americano. E la radio d'America impazziscono per questo pezzo destinato a diventare uno dei più grandi successi della storia della musica moderna, una canzone che è stata inserita nel database della sonda spaziale Voyager. Stiamo parlando di Johnny B. Goode, che Chuck Berry aveva già scritto nel 55, ecco perché c'era stata la citazione di Ritorno al futuro, ma che viene pubblicata 3 anni dopo e diventa uno dei simboli del rock and roll. Con il successo arrivano i primi guai giudiziari e non si parla più di furto d'auto, non ci sono le bravate del ragazzino ribelle. Nel dicembre del 59 Chuck Berry è proprietario di un locale, il Berry Club Bandstand a St. Louis. Nel locale c'è anche una ragazza che lavora, che fa la cameriera, ma che arrotonda come spogliarellista e magari qualche volta si intrattiene coi clienti. Però poi si scopre che la ragazza ha solo 14 anni, così Chuck Berry viene accusato e condannato per sfruttamento della prostituzione e atti sessuali con una minorenne. Viene condannato a 5 anni di prigione, e lì in America in quegli anni sono come in Italia che ti danno 5 anni e fai 5 giorni. Uscirà nel 1963. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di uno dei padri fondatori del rock and roll, Chuck Berry, l'uomo che ha saputo trovare un suono inconfondibile, è diventato un esempio, che è stato seguito dalla maggior parte dei musicisti dagli anni 50 in avanti, perché Eric Clapton, Jerry Lee Lewis, Keith Richards hanno dichiarato di aver avuto una fonte di ispirazione fondamentale della loro carriera proprio da Chuck Berry, un uomo con un carattere difficile, egocentrico, ossessionato dal denaro e dalle donne, al punto da subire nel 59 la prigione, proprio nell'anno di maggior successo della sua carriera. Lì in America la prigione in quegli anni si faceva veramente, e quindi esce nel 63, però quando esce lui ha ancora molto da dire. Non c'è gruppo al mondo, bianco o nero, che abbia entusiasmato i ragazzini bianchi come Chuck Berry. Nessuno escluso, dai Beatles ai Rolling Stones. Ed ogni band di successo è stata influenzata da lui. I suoi versi erano intelligenti già negli anni 50, quando la gente cantava del nulla. Lui già osservava la società. Scriveva ogni sorta di canzoni e i suoi versi avevano una metrica incredibile. Cosa che ha influenzato me, Bob Dylan e tutti gli altri. La metrica dei versi era formidabile. È il più grande poeta del rock and roll e lo ammiro davvero. E queste sono parole importanti dette da un uomo importante, John Lennon. Chuck Berry è riuscito a scavalcare il blues, il country, il rock, ha preso il meglio da ognuno di questi generi. Certo, è arrivato il carcere, che ha dato un colpo molto duro alla sua carriera, ma a metà degli anni 60 escono altre canzoni che arrivano ancora al successo. Quanti hanno visto ballare John Travolta e Uma Thurman nel film Pulp Fiction sulle note di questa canzone Never Can Tell, e magari non hanno fatto mente locale sul fatto che questa canzone fosse uno dei tanti successi scritti da Chuck Berry, un pezzo del 64, e in due anni lui pubblica 8 canzoni, pezzi magari simili tra di loro, perché Chuck Berry, insomma, capisce che il suo riff di chitarra è quello che funziona, si autoplagia, diciamo, scrive canzoni dalla melodia simile e interviene solo sui testi. E se lui ha un marchio di fabbrica, assume un atteggiamento ben diverso nei confronti dei Beach Boys, che nel 63 escono con questa canzone Surfing USA, che assomiglia molto a Sweet Little 16, una delle prime canzoni scritta da Chuck Berry. Lui ovviamente intenta una causa di plagio, anche lì non è come adesso che uno fa uno spot in televisione, ci mette una canzone copiata da un altro e la passa liscia, e lì non si scherza. Chuck Berry ottiene che venga inserito il suo nome tra i crediti della canzone. Però la musica sta cambiando. Dal 65 al 73 lui pubblica molti album che però non riscuotono il successo di un tempo. Cambia tutto. Il sound di Johnny B. Goode non è l'unico, non è quello che piace di più. I Beatles hanno fatto Sgt. Pepper e poi è arrivato il progressive. Insomma, il mondo musicale si è evoluto. Cambiano anche gli interessi. C'è aria di contestazione. Ci sono i figli dei fiori. E i testi diventano più impegnati, più politici, non interessano più le storie delle gare di auto e dei professori e studenti delle high schools. Poi però nel 72, in piena era progressive, c'è un nuovo colpo d'ala, una canzone che si chiama My Ding-a-ling, il mio campanellino. La canzone, insomma, è una chiara metafora sessuale. Chuck Berry provoca il pubblico con frasi tipo: quelli che non stanno cantando forse giocano con il loro ding-a-ling. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per riproiettarlo in alto nella classifica dei singoli USA. Arriva al numero 1 e questa è la prima volta che gli accade. Anche è strano che nessuno dei suoi mitici singoli precedenti aveva raggiunto la vetta. Sentite in questo estratto da un concerto del 72 come lui riesca a essere un vero intrattenitore giocando coi doppi sensi. And it also happens to be a sexy song, which oh, there's nothing wrong with sex, no, not a thing wrong with sex, beautiful, it's the beautiful thing in the world. Okay, now fellas, here's where it goes. The girls have the first word, and when I lean over this way, well, then you come in with your part. Oh, my. Ding-a-ling. I want, come on, girl. Strategia che hanno usato poi in tantissimi, far cantare gli uomini, le donne, anche Paul McCartney l'ha fatto, per esempio, e l'ho visto io dal vivo. Chuck Berry, insomma, ormai è diventato un'icona del rock and roll. Lui fa concerti, apparizioni televisive, suona con chiunque voglia duettare con lui sul palco, naturalmente pagando. Parliamo di nomi molto importanti. Prende un aereo, viaggia in prima classe con una chitarra e una 24 ore, con un cambio e uno spazzolino da denti, sale sul palco, saluta tutti e se ne va, ma con una differenza: lui si fa sempre pagare prima di suonare, naturalmente in contanti. Non gli è mai passata quella ossessione per i soldi, neanche quando nel 79, dopo aver suonato alla Casa Bianca in un concerto organizzato da Jimmy Carter, torna in galera condannato a 4 mesi per evasione fiscale. E lui suona almeno 100 volte all'anno, sempre in giro, tutto pianificato, organizzato da una sua efficientissima segretaria. I soldi che guadagna li investe in altre attività, però non finiranno mai i suoi guai con la giustizia. Per esempio nel 90 si scopre che in un bagno di un ristorante di sua proprietà c'è una telecamera, e quindi viene intentata una causa da decine e decine di donne che sono state riprese a loro insaputa. Lui si difende dicendo che era stata installata la telecamera per sorvegliare una dipendente sospettata a rubare, ma alla fine deve mettere mano al portafoglio con grandissimo dolore, risarcire le 59 donne che gli hanno fatto causa e ci rimette $1 milione. E poi c'è la droga, poi c'è il sesso con ragazze non ancora maggiorenni. Insomma, Chuck Berry vive una vita da star del rock con tutto quello che ne consegue. Chuck Berry ha ricevuto in tutta la sua carriera moltissimi riconoscimenti, è definito da molti come il padre del rock and roll, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e molte delle sue canzoni rientrano tra le 100 più belle canzoni di sempre. Nel 87 è uscito un docufilm dal titolo Hey Lay Rock and Roll, in cui viene raccontata la sua vita attraverso immagini girate durante i suoi tour. E ci sono ospiti illustri: Eric Clapton, Etta James, Julia Lennon. Il direttore artistico di questo road movie, peraltro, è Keith Richards, che non nasconde quanto sia stato difficile lavorare con un artista egocentrico come Chuck Berry. Non gliene ha mai importato nulla se faceva un errore. Incolpava la band, improvvisava e tirava a cavarsela. Aveva una personalità talmente forte che ha fregato tutti. Tutti dicevano che ero pazzo ad assumermi questo compito, ma ho capito che dovevo esserci. Ma non mi sento un direttore artistico, mi sento un direttore sadomaso. Eh sì, sadomaso, è bello il rapporto che c'è sempre stato tra Keith Richards e Chuck Berry, il rapporto che si racconta sia iniziato con un pugno in faccia che Chuck Berry avrebbe dato a Keith Richards perché Keith Richards stava estraendo dalla fodera la chitarra di Chuck Berry, cioè voleva toccare quella chitarra e Chuck Berry gli ha dato un pugno in faccia senza neanche parlare. D'altra parte, insomma, il rock and roll ha delle leggi anche ben precise. Chuck Berry muore a 90 anni il 18 marzo del 2017 e lui ha continuato a suonare dal vivo fino quasi all'ultimo con quel suo sorriso capace di conquistare cuori femminili, con quel suo modo di suonare la chitarra, modo che ha ispirato intere generazioni di musicisti, con il suo passo che ha ispirato, che è stato copiato da tutti. Insomma, Chuck Berry ha fatto la storia della musica facendosi sempre però pagare in anticipo e in contanti. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che merita di essere raccontata. Poi potete venire sui miei, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.